scriverla, di scriverla come mi pare, e tu cantarla quando vuoi. Se non sai, se non sai che fare. Sì, lo so, praticamente identica, e ricordati di me, e puoi cantarla quando vuoi. Quando vuoi, questa mia canzone. Ed ogni volta che penserai a noi, aggiungerò una strofa. La musica farà così e tu ti vestirai da sposa. Ed ogni volta che parlerà di noi, io coglierò una rosa. La musica sarà così e tu ti sentirai una sposa. Di crederle o andare ed ascoltarla con chi vuoi, con chi vuoi. Sai come fare. Sì, lo so, è semplice e romantica e parla un po' di te. Puoi dimenticarla se lo vuoi. Se tu vuoi, questa è la mia canzone. Ed ogni volta che penserai a noi, aggiungerò una strofa. La musica farà così e tu ti vestirai da sposa. Ed ogni volta che parlerà di noi, io coglierò una rosa. La musica sarà così e tu ti sentirai una sposa. Ed ogni volta che penserai a noi, aggiungerò una strofa. La musica farà così e tu ti vestirai da sposa. Ed ogni volta che parlerai di noi, io coglierò una rosa. La musica sarà così e tu ti sentirai una sposa.